24 di Giovanni Minoli. Ecco, ci siamo. Il prossimo 17 aprile, giorno fissato per il referendum sulle trivellazioni, sì, trivellazioni no. Prima di discutere con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sentiamo esattamente di che cosa si tratta in questa scheda presa da Bersaglio Mobile. Quanti pozzi di petrolio esistono in Italia? Quante piattaforme in mare sono tutti attivi? E quanto petrolio o gas producono nel nostro paese? 11 sono i principali pozzi estrattivi in attività su terra, compresi gli impianti di Trecate in provincia di Novara, quasi del tutto esauriti. 119 sono invece quelle che il Ministero dello Sviluppo chiama concessioni di coltivazione, che considerano anche gli impianti di ricerca di gas e greggio. L'estrazione di petrolio su terra si concentra tra la Sicilia, nelle province di Enna, Gela e Ragusa, la Basilicata nella Val d'Agri e davanti le coste d'Abruzzo e delle Marche. Un pozzo di medio-piccole dimensioni si trova nel Lazio in provincia di Frosinone. 8 sono invece le più importanti piattaforme attive in mare, le 3 abruzzesi di Rospo di Mare, che forniscono poco meno di 250.000 tonnellate l'anno, sono le più ricche. Le concessioni di coltivazione in mare, comprese quelle per la ricerca ed estrazione di gas, sono in tutto 69. Secondo gli ultimi rilevamenti disponibili, in Italia vengono prodotti circa 4 milioni e mezzo di tonnellate di petrolio, che soddisfano il 5% del fabbisogno annuale. Gran parte dell'energia, insomma, siamo costretti a comprarla. Per questo sono aumentati gli investimenti per la ricerca, con alcuni limiti. Nell'ultima legge di stabilità è stato deciso che le estrazioni in mare non vengano fatte entro le 12 miglia dalla costa. Era il tentativo del governo di evitare il referendum anti-trivellazioni. Consultazione richiesta da 9 consigli regionali, quelli di Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, regioni indifferentemente a guida centrodestra o centrosinistra. Tra queste non c'è la Sicilia, dove, come abbiamo visto, sono concentrati pozzi e piattaforme. Per questo Rosario Crocetta è finito nel mirino dei no trivelle, premiati lo scorso 9 marzo dalla Corte Costituzionale, che ha ammesso il referendum. Ma su un unico quesito. Il 17 aprile gli italiani dovranno dire sì o no al rinnovo di 21 concessioni estrattive per giacimenti entro le 12 miglia, tutti già esistenti. In questi le estrazioni potranno comunque continuare fino ad esaurimento, poi gli impianti verranno chiusi. Per il comitato promotore, per la scansione dei fondali, viene utilizzato l'air gun, che danneggia pesantemente l'ambiente marino. Ci guadagnano solo le compagnie petrolifere, il greggio individuato è irrilevante rispetto al fabbisogno italiano, le riserve equivalgono a 6-7 settimane di consumi di petrolio e 6 mesi di gas. Per i contrari al referendum, fermare le estrazioni significherebbe perdere investimenti e posti di lavoro. Il rischio di incidenti nel settore è molto basso, solo 3 negli ultimi 65 anni, 2 su terra, a Corte Maggiore nel 1950 e Trecate nel 1994 e 1 in mare a Ravenna nel 65. La ricerca di nuove risorse energetiche, poi, è fondamentale. L'Italia nel 2014 ha importato 54 milioni di tonnellate di petrolio. Il nostro paese, denuclearizzato, dipende quasi totalmente dalla produzione straniera. Michele Emiliano, buongiorno, presidente della Regione Puglia. Lei ha detto: l'ordine del PD è quello dell'astensione, io sono costretto a violarlo. Perché? Innanzitutto perché se noi, parlo delle regioni, non avessimo fatto la richiesta di referendum per la prima volta nella storia d'Italia, il governo avrebbe tranquillamente autorizzato le trivellazioni nelle 12 miglia. Quindi dice almeno le 12 miglia le abbiamo ottenute. Insomma, abbiamo avuto questo risultato. Dopodiché il governo ha tentato di neutralizzare anche l'ultimo quesito esistente, ma ha commesso un errore, perché praticamente li ha resi come Highlander, cioè senza una data finale, sì. E soprattutto ha eliminato tutti i controlli di chiusura dei pozzi. Ma lei dice noi andiamo a votare per restituire dignità al PD, ma perché il PD perde dignità con questa indicazione di astensione? Ma io penso che un partito di governo, che ha anche il Presidente del Consiglio, deve dire o sì o no su un referendum, non dovrebbe dare indicazioni di astensione. Il fatto che qualche altra volta i DS abbiano fatto un errore del genere non significa che lo dobbiamo fare anche noi. E quindi è un'argomentazione che non regge. Ma si è capito all'interno del PD da dove è nata l'indicazione di astensione? Ma tutto nel PD nasce dal Presidente del Consiglio. Quindi dipende da lui? Beh, assolutamente, non c'è nessun'altra fonte, diciamo, di indirizzo, ecco, politico. Ma quando lei dice, Emiliano, noi dobbiamo svelare i rapporti tra il governo e i petrolieri, perché quali sono? Beh, è evidente che c'è una pressione da parte dei petrolieri, che tutto sommato sono energeticamente abbastanza irrilevanti nel nostro paese, ma evidentemente prestanti, tenevano moltissimo ad avere delle facilitazioni nelle ricerche e nelle coltivazioni dei pozzi, eliminando tutta una serie di controlli in contraddittorio con le regioni che evidentemente li infastidivano. Quindi lei dice anche alle scadenze progressive, certo, dei permessi. Quindi lei dice, se passa il sì, succede alle imprese petrolifere, succede che non ci sono più controlli di sicurezza, questo in sostanza dice. Praticamente i rinnovi finali che vanno di 5 anni in 5 anni, che sono legati alla dimostrazione da parte del petroliere di avere rispettato tutte le norme, sarebbero impediti se, come io penso, molti dei pozzi italiani, escluso quelli dell'Eni che mi pare siano in sicurezza con certezza, gli altri rischiano di non essere molto regolari e in questo modo vengono sanati, perché praticamente si va avanti e si rinvia la data di chiusura del pozzo quando lo deciderà il petroliere, che ovviamente aumenta il rischio. Senta, ma c'è chi dice che un eventuale successo del referendum metterebbe però invece a rischio migliaia di posti di lavoro. Lei non si preoccupa di questo? Questa è una falsità completa, perché purtroppo viene ripetuta anche a capo del governo, e questo mi dà un grande dispiacere, perché con la precedente legge, la 9 del 91, che aveva appunto i rinnovi di 5 anni in 5 anni, i posti non venivano chiusi e nessuno ha perso un posto di lavoro. Quindi evidentemente si sta cercando di spaventare le persone, sperando che non vadano a votare, perché c'è il timore che un eventuale successo del sì possa avere impatti sugli interessi dei petrolieri o per altre ragioni che non conosco, negativi. E non mi pare che questo sia il ruolo del Partito Democratico. Senta, il Partito Democratico non è il partito dei petrolieri. Senta, ma comunque, tutti gli italiani. Se comunque nella direzione del PD prevista in serata verrà ratificata la decisione, c'è prevista una discussione, che cosa? Ma se ho capito bene, già ieri Matteo Renzi ha fatto marcia indietro ancora una volta, come sul referendum, cioè c'è l'indicazione di astensione agli organi dell'informazione in modo tale da tenere bloccati gli spazi, però poi ieri ha tranquillamente detto, però poi ognuno fa quello che gli pare, perché quindi ha dato libertà di coscienza, diciamo, sostanzialmente. Sì, però come al solito con l'atteggiamento di fare una cosa ma anche l'altra. Ma ha recepito le vostre obiezioni sostanzialmente? Diciamo che ha recepito le nostre obiezioni, perché si è reso conto che la stragrande maggioranza dei militanti del PD voterà sì, e quindi è chiaro che lui rischiava di dover espellere praticamente tre quarti del partito, poi avesse reso obbligatorio quell'indirizzo. Senta, Renzi sostiene comunque che questo referendum in realtà comunque è uno spreco di 300 milioni, è così? Non è così, perché... Ma non si poteva accorparlo col voto amministrativo? Allora, primo, era possibile accorparlo, come lui stesso richiese per il referendum sull'acqua e come è stato fatto nel 2009, credo, per un altro referendum che adesso in cui un quesito non ricordo. Ma soprattutto è incredibile che il governo, che sbaglia nel tentare di far fuori anche il sesto quesito, quello che rimane e che verrà presentato il 17 aprile, perché evidentemente non riesce ad assorbirlo nella legge che voleva superarlo, poi se la prende con noi, perché si deve comunque fare il referendum, quando le regioni non avevano nessun potere di revocarlo, quest'ultimo quesito. Quindi dire che la colpa è nostra è un'argomentazione insopportabile. Senta, ma lei ha parlato con Renzi di questo problema? Non mi prende in giro, lei sa bene come tutti gli italiani che Renzi non mi parla. No, io non lo so bene, se lei me lo dice lo so. Lo ripetiamo, è così. È una tecnica politica, quando qualcuno è uno spirito libero normalmente si finisce con non riuscire più a parlare con lui. Senta, ancora una cosa, lei è sempre più lontano, mi sembra di capire, dal segretario. Al prossimo congresso, qui da noi, Rossi, il presidente della regione Toscana, ha detto che lui si candiderà come nuovo segretario. Lo farà anche lei? Si candiderà anche lei? No, segretario. Io anche questo l'ho già detto più volte. Lo ripetiamo. Lo ripeto, non ho alcuna intenzione di candidarmi alla segreteria del Partito Democratico, sono presidente della Regione Puglia solo da 8 mesi, d'altra parte vedo che è molto più utile in questa fase per la Puglia che io faccia il presidente della Regione piuttosto che mi distragga con altri impegni, e quindi ribadisco, rimarrò fermo diciamo con la legge in mano, che è l'unico mio riferimento, a ripetere la verità all'infinito fino a quando o Renzi mi riabbraccerà dicendo grazie Emiliano perché mi hai dedicato tanta attenzione nel consigliarmi per il bene e quindi avrà finalmente capito il senso di quel che faccio, oppure bisognerà nel prossimo congresso, che io penso, a votare un'altra persona. Ho una responsabilità grave verso il paese, perché io Renzi l'ho aiutato nel congresso, l'ho votato in Puglia, lui ha stravinto anche grazie a me, non solo a me, e quindi ho la responsabilità che è diversa da quella di D'Alema, Bersani, che ovviamente sono sempre stati. E quindi diciamola così, Emiliano, diciamola semplice: se Renzi non la riabbraccia in tempo, lei voterà per un altro. Ovviamente va bene, è una così questione di abbracci, è vabbè, una l'ha detto di lei. Se lui non si riaprirà ad un'attività politica interna al Partito Democratico, vabbè, come io la immaginavo quando l'ho sostenuto, è chiaro che non potrò più votare. Lei che ha parlato dell'abbraccio, mi sembrava una bella immagine. Va bene, grazie, buon lavoro, grazie. 800240024, numero verde, 349-238-6666. L'SMS. Ecco, Alberto Clò, economista, ex consigliere dell'ENI. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei insieme a altri 150 autorevoli personalità della scienza, della ricerca, dell'impresa, ha aperto un blog per diffondere una lettera dal titolo Le ragioni di una scelta sul referendum di idrocarburi. Ecco, professore, voi, al contrario del presidente Emiliano, che forse ha sentito, sostenete che non ci siano rischi significativi. Su che basi lo affermate? Sulla base della storia, perché questa vicenda, tra l'altro, diciamo la tipica vicenda italiana, no? Che è fatta di però più di mistificazione, di parlare d'altro, non ha dato alla popolazione quel minimo di informazione sulla cui base, diciamo, poter decidere. Non è un problema di coscienza, come alcuni politici cominciano a dire, è un problema di conoscenza, di fatti. Bene. L'Italia ha una storia, diciamo, una tradizione storica nelle stazioni di idrocarburi che è seconda al mondo. Cioè, nel 1805, per dire, le strade di Genova erano illuminate con nafta raccolta dal fiume Taro. Nel 1861 Unità d'Italia, si forò in Italia un pozzo di una profondità di 600 metri contro i 20 che erano in America. Questo per dire che abbiamo, eravamo avanti nella tecnologia, insomma. Assolutamente avanti. Dal 1861 ad oggi, ecco perché dico che è la storia, la nostra garanzia, noi abbiamo estratto 200 milioni di tonnellate. Sì. E abbiamo estratto circa 800 miliardi di metri cubi. E quanti disastri in mare sono successi? No, ma qui tre riferimenti che ha fatto prima il servizio di introduzione ci dicono che appunto la storia, la nostra garanzia. I rischi non si affrontano, diciamo, decidendo di non fare, ma con la capacità di governare, con la tecnologia, l'intelligenza, la professionalità. L'Italia ha, e non c'entra, non è solo l'ENI o altre imprese petrolifere, ha un'industria tecnologicamente molto avanzata, fatta di decine di centinaia di imprese e decine di migliaia di occupati. Ma quindi lei auspica, scusi professor Clò, lei auspica quindi una proliferazione di piattaforme nei mari che ci circondano? No, io auspico, dico che per l'Italia dovrebbe accadere quel che fa qualsiasi paese al mondo. Vi sono delle riserve petrolifere. L'Italia, a parte il mare del Nord, è il paese in Europa che ha la maggiore riserva di petrolio e di gas. Ma che non riesce a sfruttare. Per un'opposizione che, diciamo, uno degli altri argomenti falsi che si sostengono, che stare petrolio è alternativo alle rinnovabili. Sì. Chi lo dice o è ignorante, e quindi solo in parte giustificabile, e non lo è, allora, diciamo, si va in un'altra definizione. Perché il petrolio non è alternativo alle rinnovabili, il petrolio va nei trasporti, nella petrolchimica e ad alimentare gli aerei. Il metano è, diciamo, perde rispetto alle rinnovabili. Comunque, guardiamo i dati. L'Italia ha dimezzato i consumi di petrolio, ha ridotto a un terzo, dico un terzo, i consumi di benzina, ha aumentato di 3 volte le rinnovabili. Ma il punto non è questo, non è che un barile di petrolio non estratto è una unità di rinnovabile, un barile però estratto è un barile in meno importato. Sì, l'alternativa è tra produrre e importare. Allora, sì, si preferisce d'accordo, importare. Però le voglio fare una domanda precisa. Le ho chiesto se lei auspica quindi una proliferazione, per cercare bisogna fare delle altre piattaforme, quindi il mare... Allora, vediamo cos'è questa proliferazione. Chiedo. Io le rispondo. 20 anni fa, no? Una decina di anni fa, si sono perforati in Italia metri 20 volte superiori a quelli di oggi. Allora io vorrei chiedere ai politici che oggi hanno improvvisamente scoperto i rischi, i disastri potenziali, perché allora autorizzarono tutto e di più? Vabbè, questi sono altri politici, un'altra situazione. Domanda. Io non parlo di proliferazione. Tra l'altro, vuol dire un'altra delle cose dette da Emiliano, insostenibile, sì, è che da noi non ci siano controlli e regole. Le regole sono le più severe che ci siano al mondo. Ecco, ma dal che punto... da noi abbiamo proibito l'attività a parte del 120 miglia. E dai 12 miglia, cosa che altrove non avviene. Però questo è ottenuto grazie al referendum. Cioè il limite delle miglia è stato introdotto grazie a una pressione, non è che era così prima. È stato introdotto dal ministro Prestigiacomo quando ci fu l'incidente a Macondo, quindi non c'entra assolutamente niente. Senta, ma dal punto di vista dei numeri, che quantità di petrolio potrebbe essere estratto in Italia? Cioè, di cosa parliamo? Allora, noi potremmo nel giro di pochi anni raddoppiare l'insieme di petrolio e gas. Quindi dal 5% al 10% del nostro fabbisogno? Sì, di più, perché il gas è di più. Diciamo da 10 milioni di TEP, 11-12 milioni di TEP. Sì, ma in percentuali rispetto ai nostri bisogni? Potremmo andare al 10-12%. 10-12%. Esattamente. Vuol dire, il problema qual è? Che ormai la battaglia per i TRIV è vinta. Sì. Perché? Perché le imprese stanno cancellando i progetti di investimento. E stanno nel giro di 2 o 3 anni si sono cancellati i progetti per 10 miliardi di euro. Senta. Sono 10 miliardi perché le imprese vanno a investire altrove, magari vanno a investire dall'altra parte dell'Adriatico, a sfruttare gli stessi giacimenti. Dall'altra parte. Senta, professor Clou, voi vi proponete come una sorta di fact-checking delle argomentazioni degli altri. Ecco, la prima cosa, la smentita, è quella della sicurezza. Ce n'è un'altra importante? Quello che le ho detto, che l'estrazione di petrolio e metano non pone problemi. Non è alternativa alle rinnovabili. Ecco, ultimissimo. Le rinnovabili in Italia sono aumentate di 3 volte. Nel giro di 15-20 anni sono aumentate di 3 volte. Siamo il primo paese o secondo al mondo a fotovoltaico. Ancora una cosa, professore, per chiudere, professor Clou. Anche i vescovi, però in seguito all'enciclica verde del Papa, si sono schierati contro le trivellazioni. Non la fa riflettere una presa di posizione così forte da parte dei vescovi italiani? No, mi fa riflettere nel senso che ho letto... Siamo sempre sull'ignoranza, dice. No, lì siamo sul misticismo, non lo so come dire. Cioè, non penso che il vescovo abbia fatto una riflessione. Ne ho parlato ieri con mio parroco, effettivamente non ho trovato un interlocutore valido. Nel senso che dice, ma l'ha detto la Chiesa, l'ha detto il Papa, l'ha detto, non è vero che questo ha detto. Comunque, d'accordo, mi sembra che... diciamo non mettere in ballo no, sono loro che si sono messi in ballo, per questo le facevo la domanda. Vorrei sapere qual è la loro posizione, la loro formazione. Quando si sostengono cose senza averle adeguatamente motivate, al di là di essere almeno cattolico, diciamo. Grazie professor Clou, grazie professore Mario. Tu sei trivella sì, trivella no? Io sono per lo sviluppo. Quindi penso che questo referendum sia... Sì, assolutamente, penso che il referendum sia messo male. La bellezza non si trivella. Se volete vi ricordo, Milazzo, quella lingua di paradiso meravigliosa, devastata da una raffineria. Priolo, cioè Siracusa, devastata. Quindi tu sei per il referendum. Gela, ridotta a essere la spazzatura del Mediterraneo. Però non da trivella. Dagli impianti quali sono state le scelte imposte nel tempo e che ancora oggi si ripropongono, e si vede la differenza tra un presidente di regione con gli attributi, giusto per citare Bertolaso, qual è Michele Emiliano, e invece Crocetta che si è venduto letteralmente alle logiche, vabbè, proprio di devastazione di un territorio. Va bene, referendum, siamo opposti, okay. Io siamo finalmente contrapposti, ma, chiaramente su questo, su questo. Ma intanto molto. Oggi che è il 21 marzo, oltre che comincio l'inizio della primavera, è la giornata nazionale della memoria e dell'impegno nel ricordo di tutte le vittime delle mafie. Ricordo che a Roma, al Teatro Argentina, le vittime saranno ricordate con uno spettacolo dal titolo 10 storie proprio così, ma alle 11 in contemporanea in molte piazze italiane succederà questo. La mafia è una montagna di merda. Si muore solamente nell'indifferenza. La camorra non vale niente. La mafia dà come favore ciò che lo Stato dà come diritto. Non li hanno uccisi, perché le loro idee cammineranno sulle nostre gambe. Don Peppe Diana, Annalisa Durante, Teresa Buonocore, Umberto Concilio, Raffaele Iozzino, Paolino Avella, Luigi Sica, Gigi Sequino, Raffaele Gargiulo, Attilio Romano, Antonio Marino, Vincenzo Montanino, Luigi Gangiano, Dario Scherillo, Salvatore Buglione, Paolo Castaldi, Gioe Petrosino, Gianluca Ciminiello, Raffaele Iozzino, Fortunato Arina, Giuseppe Falanga, Silvia Ruotolo, Mena Morlando, Simonetta Lamberti, Pasquale Miele, Daniele Del Core, Emilio Albanese, Carlo Cannavasciuolo, Marcello Torre, Fortunato Arina, Gelsomina Verde, Antimo Graziano, Giancarlo Siani, Salvatore Nuvoletta, Palma Scamardella, Antonio Di Bona, Paolo Castaldi, Giuseppina Guerriero, Gennaro Falco, Teresa Buonocore, Angelo Vassallo, Antonio De Rosa, Daniele Del Core. Siamo tutti nel rigagnolo, alcuni di noi fissano le stelle. Nando Dalla Chiesa, professore di sociologia della criminalità organizzata all'Università Statale di Milano, buongiorno. Ecco, buongiorno. Libera il movimento che ha promosso il 21 marzo, cioè oggi, come giornata nazionale della memoria. Suo padre ha sconfitto il terrorismo. Che cosa non ha funzionato nello stesso modo contro la mafia? Lo Stato non era pronto a contrastare la mafia, non era pronto culturalmente, psicologicamente, i mezzi potevano non mancare, il terrorismo era considerato una forma di eversione che colpiva lo Stato al cuore, con la mafia si era abituati a convivere. E da oggi, da allora a oggi, com'è cambiata la mafia? La mafia è cambiata perché... diciamo che è meno tracotante, ha un senso molto minore di onnipotenza rispetto ad allora. Cosa Nostra si è indebolita, è stata attaccata, è stata contrastata con efficacia dallo Stato in molti tornanti. È cresciuta la presenza dell''ndrangheta soprattutto al nord. Ecco. Ma questo dimostra che quando si ha un obiettivo da raggiungere, quando lo Stato si pone un obiettivo da raggiungere, lo può raggiungere. Ecco, ricordare in ogni caso è un dovere civile. Oggi credo che alla scuola dei carabinieri intitolino la biblioteca a suo padre, così? Sì, è la scuola ufficiale in cui andava volentieri a parlare con le nuove generazioni dell'arma dei carabinieri, sarà intitolata la biblioteca lui. Ecco, a lei cosa resta dell'esempio di suo padre o dell'insegnamento di suo padre? Ma fondamentalmente una cosa, che le istituzioni vengono di sopra di ogni interesse di parte, e questa è la grande bussola di cui dovrebbe dotarsi lo Stato. Ecco, il presidente del Parlamento europeo Schulz ha definito la memoria come un anticorpo democratico, è così? Certo, perché se pensiamo alla mafia, la mafia ha sempre chiesto l'oblio sulle sue vittime, ha chiesto di ricordare che cos'era accaduto, ma di ricordarlo in silenzio e di fare scomparire dalla memoria pubblica i suoi avversari. Ecco, Dalla Chiesa, in questi ultimi tempi però il movimento antimafia è al centro di molte polemiche. Che cosa sta capitando? là di episodi che anch'io ho cercato di denunciare, di malcostume che possono esserci nel modo in cui si utilizzano i fondi dell'antimafia, che sono sacri, non possono essere oggetto di manipolazioni e di interessi personali. Cioè, ma sembra quasi che sia stata infiltrata l'antimafia anche. È così? No, sa che cos'è? Che una volta l'antimafia, quando ci parliamo degli anni Ottanta, era un fenomeno molto legato alla spontaneità, al volontariato, ed era fatto di una minoranza che non trovava intorno a sé grandi consensi. Certo. Oggi l'antimafia è cresciuta molto, ottiene anche consensi, ottiene anche fondi, e questo ovviamente richiama delle persone che non hanno molto a che fare con il suo spirito originario. Senta, il Movimento 5 Stelle alla commemorazione di Don Peppe Diana ha denunciato la sospensione dei fondi per risarcire le famiglie delle vittime della mafia. Il governo ha smentito, però in realtà i fondi non sono arrivati. Qual è la situazione? Guardi, questo onestamente non glielo so dire, so che in queste vicende ci sono sempre ritardi, è come la vicenda della protezione dei testimoni di giustizia, ci sono alcuni punti sensibili che richiedono un intervento accurato e determinato, anche perché per fortuna, rispetto a una volta, le persone che chiedono fondi non sono più sole con l'amministrazione, ma hanno delle associazioni di riferimento, tra cui appunto anche Libera. Senta, lei nella Chiesa, nel suo manifesto antimafia, scrive: la prima condizione per vincere una guerra è combatterla. Ecco, sembra banale, ma è vero. E l'Italia lo sta facendo o no? L'Italia lo sta facendo in parte. E senza troppe lamentazioni, è bene che chi può fare qualcosa lo faccia, perché siamo obiettivamente in una situazione in cui esiste la necessità di una supplenza da parte di organismi della società civile, da parte anche di enti locali. C'è una parte della magistratura, sono le forze dell'ordine che questa lotta la fanno. Devo dire che rispetto a una volta ci sono anche consigli comunali che sono più attenti e più impegnati a non fare passare attraverso i bandi o attraverso i loro lavori pubblici la presenza mafiosa. Ecco, ma le armi più efficaci, per finire, quali sono? Ma guardi, siccome è un fenomeno sistemico, va combattuto a tutti i livelli, sicuramente con la repressione e con le indagini, che sono l'ABC, l'essenza assoluta per contrastarla. Ma qui si va dalla scuola alla politica economica, alla politica estera, all'organizzazione della giustizia. Quindi sono davvero tanti i piani su cui si può ottenere qualcosa. Su tutti i piani, cosa. Quindi. Sì. Grazie dalla Chiesa. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Mix 24. Mario, Andrea ci dice: ma con il costo del barile attuale non conviene estrarre, c'è molta offerta, non conviene produrlo, allora è una cosa inutile. No, non è così, anche perché prima o poi il prezzo risale, non resta così. Una posizione precisa. Posso solo dire, questo è un referendum veramente strano, perché tre numeri: 11.000 persone nell'estrazione, 21.000 nell'indotto, 100.000 nell'oil and gas, 340 milioni di royalties allo Stato e 1,2 miliardi di investimenti. Li cancelliamo così e ce lo possiamo permettere. Non lo so, siamo proprio bravi. Vabbè, è buttafuoco, d'accordo. Quindi, No, ma uno dice: vabbè, qual è l'alternativa? Cioè, solo questo. Fosse sul turismo. Scusate, fosse così conseguente i numeri, sicuramente, per come è devastata la mia Sicilia, dovremmo essere ricchissimi. E invece, malgrado l'investimento su questi numeri, siamo in mutande. Canzone. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. Hello, lady. E lunedì è bestia, nel senso della bestia, se ne stava impacciato e goffo oggi, col suo giubbotto troppo stretto, le sue scarpe malmesse, aggrappata al corrimano della metropolitana, incapace di sorridere, vergognoso assai del proprio dolore, si faceva le scale mobili e alla fine ha trovato bella. E lei ha dato a lui, che è bestia, una dolcissima melodia piena di errori, e dunque bella, questa chicca, la dedica a bestia con una dedica. Il puzzle è compiuto. È tutto chiaro, Mario? Sì, hai capito, vero? Era Elvis Costello, comunque, quindi va bene. La scelta musicale era perfetta. Perfetta. Poi sai che io non arrivo alle vette di Pietrangelo. Pietrangelo è artista vero. Quindi e io allora andiamo con la tua bolla. Questo è un bel pezzo, Si chiama Do You Remember, e vedremo anche che il titolo in fondo è azzeccato, è Jerry James. Allora, vabbè, hanno fatto l'accordo nel fine settimana con la Turchia, però il piano si è fermato subito, questa è la vera notizia poi alla fine di tutto, no? Ieri la Grecia ha alzato le mani, ha detto noi non siamo assolutamente pronti, perché qua c'è si direbbe il combinato disposto tra la Grecia e la Turchia, la Grecia è nei guai seri. Allora, voi sapete tutti che la Grecia è uno stato con grandi difficoltà finanziarie, sì, e così via. Vabbè, solo per dare appunto ancora numeri, dati di realtà che possono servire a riflettere, 1000 migranti ieri sono sbarcati in un solo giorno sulle coste elleniche. E Atene ha bisogno di tutto, denaro, persone. Francia e Germania invieranno 600 poliziotti e funzionari per esaminare le pratiche di asilo. Naturalmente non bastano, ce ne saranno altri 1100 più altri 200, e vedrete, ne serviranno ancora. Il resto lo faranno i turchi? Tu sai come la penso. Io non ho fiducia nella Turchia, ma per motivi oggettivi. Guarda come si è comportata nel conflitto siriano, ha dei problemi giganteschi appunto con il Kurdistan. Insomma, secondo me dare le chiavi dei nostri confini alla Turchia è una cosa incredibile. Tra l'altro poi ci sono dei problemi etici, a mio avviso, che riguardano l'identità europea e, come dire, anche il rispetto della libertà, dei diritti umani e così via. Tutti figli della Turchia, io no, poi magari sbaglio, e spero di sbagliare, anzi. Gheddafi diceva che era il cavallo di Troia dell'Islam radicale, ma vediamo. Lui lo sapeva certamente più di noi. Salamino, asole e bottoni oggi. Allora, l'argomento qual è? Chiese ai musulmani. Due parroci di Pistoia offrono le proprie chiese alla preghiera collettiva degli islamici. L'idea era quella di stendere dei tappeti indirizzati verso Mecca. Bismillahirrahmanirrahim. Allora, già fanno tanti guai le professoresse col cerchietto, quelle laiche politicamente corrette, quelle che non fanno fare il presepio con la convinzione di rispettare il credo altrui. Adesso arrivano anche i preti, digiuni solo di religione e non di quaresima, se non sanno quello che già in passato si stabilì come regola definitiva tra cristiani e musulmani, tra chiesa e tappeto, se il califfo Omar, il conquistatore di Gerusalemme, stabilì questo precedente. E perciò asole e bottoni. Il califfo Omar, accompagnato dal patriarca Sofronio, si trova all'interno della Basilica del Santo Sepolcro. E mezzogiorno la campana, sebbene la città santa sia in mano ai saraceni, batte i 12 rintocchi. Fuori dalle mura arriva la chiamata del muezzin per la preghiera. Il patriarca Sofronio, nel frattempo che accoglie i fedeli accorsi per la santa messa, offre l'intimità di una cappella al califfo dove srotolare il tappeto e così pregare. E però il califfo, ringraziando, esce sul sagrato e fuori, non dentro la chiesa, fa la sua preghiera e viene seguito nell'esempio dai suoi soldati. «Perché avete rifiutato il mio invito?» chiede il vescovo di Gerusalemme. «Perché», risponde il vittorioso Omar, «la mia preghiera dentro il perimetro della basilica sarebbe diventata un precedente per i miei successori. Ne avrebbero rivendicato i diritti». E il califfo Omar ripeté: «La basilica è vostra, solo vostra». E ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza, per capire meglio la mia essenza. Allora Mario, io una bolla, ci resta la basilica intanto. Sì, tanto ci resta. Ci resta la basilica, noi già adesso siamo più tranquilli e un po' di musica. Dai, questa è insomma una rivisitazione, si direbbe tecnicamente una specie di mashup. Sì. Oh, questi sono i Two Black Wave of Love, eh? Love con però love con Vabbè, e musica nuova, moderna, contemporanea, per dire cosa? Che Apple ha un problema, o forse no, vediamo. Noi l'avevamo segnalato mesi fa, potremmo prendere tranquillamente i nostri archivi per verificare, e avevamo detto che ci sarebbe stato una frenata nelle vendite di iPhone. Il mercato è saturo, saturo di modelli, saturo di marchi, tutti molto validi tra l'altro, e competitivi oggi con Apple. E che fa Apple a questo punto? Ha pensato a semplice, dice: facciamo un telefonino low cost. È interessante perché fa 500, ma non lo so, comunque sta a 7,90 adesso, non mi ricordo, costano un botto gli iPhone. E questo significa però che l'azienda della mela, un po' smangiucchiata, ha un problema di ricavi futuri evidente. Certo. E i modelli storici sono calati, i nuovi stentano in mercati appunto che sono pieni di offerta. Non solo, però, c'è anche un altro dato secondo me molto interessante, un dato di immaginario che per Apple non dico che è tutto, ma è tanto, e cioè il fatto che è la fine dell'immagine di un club esclusivo della tecnologia che Apple aveva costruito anche sulle politiche di prezzo molto alto. Voi considerate, fate un confronto tra un PC di, diciamo, di alta gamma e un MacBook e così certo. via, e vedrete che insomma c'è una differenza di prezzo molto grande. È la fine di un'era, secondo gli osservatori, gli analisti. Non è la fine di Apple, che ha molti soldi da investire, certo. vedrete. Troverà delle altre ma strade. Tireranno fuori un'applicazione killer credo, a breve. Ah sì? Hai notizia? Loro puntano su tutta, anche loro puntano su ricerca, intelligenza artificiale, le auto, quindi le auto, wearables, no? Cioè gli oggetti che si possono indossare. Vedrai. Canzoniere. Ah sì, le calme del tuo ciel divine mi fecero poeta, i sorrisi d'un mar senza confine, là tra la mia pineta, tra la pineta mia dove ho passati i momenti più belli, dove ho goduto i miei sogni dorati e i canti degli uccelli. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. X 24. Sono tante le vittime innocenti uccise dalle mafie. Troppe. Per ricordarle, il nostro impegno a fare di più. Per ricordarle tutte, il 21 marzo, un ponte ideale collegherà Messina a 1000 luoghi d'Italia. Così lo spot di Libera per il 21 marzo, giorno della memoria delle vittime innocenti uccise dalla mafia. E noi allora vogliamo ricordare 40 mesi terribili in una sola terra, perché in Sicilia dal 79 all'82 la mafia alza il tiro e massacra politici e magistrati, tra loro il capo della Mobile Boris Giuliano, il segretario della DC Michele Reina, il presidente della regione Piersanti Mattarella e il segretario del PC Pio La Torre. Pio La Torre, l'uomo che incastrò la mafia, il sindacato, il partito, la politica, vita e morte di un siciliano coraggioso. Testimoni, rivelazioni, misteri. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mario, c'è un aggiornamento? Sì, purtroppo è una cosa triste, ma il governo catalano ha confermato la morte delle 7 studentesse italiane. Ah, 7 sono... Sì. Confermato. Sì, confermato. 7 studentesse italiane sono tra le vittime dell'incidente e purtroppo sono tutti identificati. Abbiamo notizie del canzoniere, no, un aiutino Pietrangelo per il canzoniere? Montava solitamente a cavallo con fanatismo futurista. Vabbè, intanto non per domani arriverà la risposta. E intanto noi col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, dicembre 2015. Parti in casa, quali rischi? Qualche tempo alcune donne, per evitare la cosiddetta medicalizzazione di quello che è un evento naturale, scelgono di far nascere il proprio figlio o figlia a casa. Che succede? Vale la pena? Dà problemi? È una scelta tranquilla o no? Allora questo lavoro è andato a guardare 80.000 nascite a basso rischio, cioè persone assolutamente normali, con gravidanze senza problemi, e volevano vedere se in queste 80.000 nascite, tra quelli che avevano una nascita in ospedale o quelle che facevano nascere il figlio a casa, c'erano delle differenze. Ci sono delle differenze, perché la morte perinatale era di 3.9 per 1.000 parti se a casa, mentre invece in ospedale è 1.8 morti per 1.000 parti. Chiaramente chi è che partoriva fuori dell'ospedale, a casa, aveva minor probabilità di averci un taglio cesareo o un'induzione del parto, come sapete, con farmaci vari, tipicamente l'ossitocina. Però a fronte di questo diminuito rischio, evidentemente, di fare il taglio cesareo o l'induzione del parto, la mortalità era maggiore. E quindi, anche se l'idea del nascere a casa ha tutta una sua serie di valenze anche poetiche e di attenzione alla tranquillità che certamente la casa ti dà rispetto a una comune sala parto, credo che il rischio sia talmente raddoppiato, come dicono i numeri, che vale la pena starsene dentro l'ospedale. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi oggi? Ho scelto una canzone per chi ha a che fare con chi usa quell'eterna scusa. Prima di te ho frequentato una stronza. Negramaro, attenta. Attenta, sta attenta che mi uccidi in questa stanza. E un bacio non conosce l'innocenza. E sei colpevole di questa notte. Cielo che si innalza altissimo. intorno a noi bellissimo.